De Rozza dei Verdi, avete caratterizzato la vostra presenza in piazza in maniera particolare, no? Improntata sul free software, che c'entra in senso lato con il 25 aprile, con la resistenza, però in qualche modo c'entra anche quello, no? Sì, sì, sì. Insomma, la resistenza ecologia mentale, diciamo. Sì, ecologia mentale, ecologia della tecnologia, ecologia della comunicazione. Resistenza al monopolio economico, monopolio della Microsoft, sì. Culturale. No, non è solo Microsoft, è un monopolio culturale, il concetto che esiste solamente un modo di fare software, è il concetto che è possibile costruire da una cosa che sembra essere chiusa, bloccata e che chiude concetti, idee, documenti, conoscenza dietro un codice, e l'idea invece che si possa aprire tutto questo, l'idea che tutto questo possa diventare uno strumento per condividere la conoscenza, per condividere i saperi, per condividere la tecnologia, per condividere le piattaforme e per costruire attraverso la rete un modo di inventarsi cittadinanza partecipata. E questo è secondo noi un elemento assolutamente centrale, fondamentale, ed è il motivo per cui si sta lavorando in questo senso. Quindi state per partire con una campagna comunicativa su questa questione a partire quest'estate dalla festa di Radio Sherwood, no? Mi raccontavi prima. Sì, la cosa è legata ad un'associazione importante che si chiama attivazione.org. L'idea è quella di lanciare questa campagna che si intitola in maniera provocatoria "Copiare il software non è reato", e copiare il software non è reato nel senso che ci stanno vendendo il fatto che il copyright è un valore assoluto secondo le multinazionali. Il copyright noi crediamo sia un valore assoluto, è vero, il punto è che c'è un modo importante che è quello di condividere, come dicevamo prima, la conoscenza, di condividere il software. In questo modo è possibile legalmente, anche se non è l'elemento centrale, utilizzare questo software, condividerlo, diffonderlo, copiarlo, farne un po' quello che si vuole. Il concetto del software libero è esattamente questo: prenderlo, riutilizzarlo e rimetterlo in, utilizzarlo, migliorarlo e rimetterlo in condivisione e metterlo a disposizione degli altri. Infatti è una questione che ormai ha sfondato dentro la legalità con prolificare di licenze alternative, CPL, copyleft. Esattamente, esattamente. È importantissimo il movimento delle Creative Commons, che sta cominciando a lavorare in maniera assolutamente diffusa sulla questione del diritto d'autore, della revisione del diritto d'autore. Il diritto d'autore è un elemento importante, non siamo contrari al diritto d'autore, è assolutamente importante però rivederlo, riconsiderarlo in termini temporali, in termini qualitativi. Lo stesso la questione il software è distribuibile sotto una serie di licenze, abbiamo le licenze chiuse tipiche dei monopolisti, che ricordiamo non è solo Microsoft, ce ne sono altri, sono altre realtà di questo tipo, oppure c'è per esempio la GPL, che è la licenza che porta avanti la Free Software Foundation, che è quella che consente le famose quattro libertà ed è quella che, a nostro modo di vedere, maggiormente consente il fatto di diffondere la conoscenza, di diffondere la tecnologia e di riutilizzarla.